Then I went down into the basement where my friend, the maniac, busies himself with his electronic graffiti. Finally, his language touches me because he talks to that part of us which insists on drawing profiles on prison walls. In that moment, poetry will be made by everyone, and there will be emus in the zone. Inizia ora Music for You. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Music for Youth, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. State frodando il fisco, state correndo in tapirulan, state rapinando una banca, e allora perché avete noi in sottofondo? Se corrono in tapirulan però possono farlo, secondo me. Distrae, però... Tu dici Favotto? Beh sì. Se anche se rapinano una banca in qualche modo. Nuova settimana in Music for You, Radio Sherwood 97 e 8, Radio Sandonà 102 e 2. Queste le frequenze disturbate da noi in quest'ora di programmazione. È bello vederti, è bello anche sapere che sei ancora vivo in qualche modo. Si respira nonostante tutto, si respira ma si sta stretti in studio. Ospiti questa sera, un triumvirato. Da dove venite? Uno e Trino. Dalla provincia di Treviso. Potete anche stare più sullo specifico. Meduna di Livenza. E dove c'è il cinema porno? No. Non ancora. Ma vedi che però ci sarà. Forse stanno pensando a un merchandising anche esatto. Per il cinema porno. Esatto. Era Lugugnana, ti voglio correggere, ma vicino a Porto Guardo. Di Venezia. Sì, assolutamente sì. Avranno qualcosa in provincia di Treviso. Cioè, i Novalisi. La pornografia non esiste. Hanno i Novalisi. Buonasera Novalisi. Buonasera a voi. Buonasera, rispondete alle voci di Enrico. E poi di anche tutti gli altri. Michele e Davide. No, perché sapete, noi abbiamo una strumentazione molto accorta, per cui a girare il microfono tra tre persone. Quindi Michele e Davide in questa puntata non parleranno, ma staranno qui e disegneranno degli ottimi origami a forma di gazza ladra e li faranno passare sopra a Michele, no, o a Davide, o a Enrico. Enrico che nel mentre parla. Enrico è l'unico che ho dimenticato. Cioè, fa conto te. C'hai un cervello che guarda. Il classico cervello del pesce rosso. E allora, questi Novalisi che sanno mi arrivano... suonare, da quanto si capisce. Posso che fare una domanda? Certo che sì, sei qui. Siamo per questo. Oh, molto bene. Ma allora, il nome, cioè, domanda di un'originalità che hai capito? Il nome arriva... Allora, lo spiego in modo semplice. Prima di questo progetto facevamo parte di un'altra band dove eravamo in quattro componenti. Quando il quarto componente per motivi personali ha dovuto lasciare la band, si è deciso di trovare un altro nome per questo progetto. Ci piaceva il suono di questi due parole, Nova e Lisi, dove sta a significare una sorta di nuova scissione in riferimento alla band precedente, quindi una sorta di nuova unione in questa band. Ma questo sfascio è arrivato con lanci di bottiglie, Molotov in studio, cose simili o...? No, è arrivato dopo parecchi mesi di... come si può dire? Si può dire scazzo in radio, per cui... Ah, ok, dopo mesi tipo, di... Non so se la parola che volevi era risse domestiche, però non so. No, è stata una scelta molto lanci di pignate, molto tranquilla fra tutti e tre, e ha convinto subito. No, ma si sono rivolti a Forum anche loro, e Santi Licheri l'ha risolta a suo modo. Santi Licheri con un sano patteggiamento. Santi Licheri finché ha potuto l'ha risolta a suo modo, diciamo. Signor Favotto, sai con che cosa cominciamo questa sera? Sì, lo so. Perfetto. Pensa. Per una volta lo so anch'io, sono gli Smashing Pumpkins. Bravissimo. Gruppo che ci è stato consigliato dai qui presenti ospiti. E noi siamo felicissimi di questo perché Attilio Lombardo, Pelato e Bastardo, Smashing Pumpkins prendono, Billy Corgan fa suo questo gran motto. Esatto, sì. E decide di perdere tutti i capelli. Però a questo punto ci sta una domanda che abbia un checché di serietà, che è la seguente: gli Smashing Pumpkins perché? No, gli Smashing Pumpkins abbiamo scelto questa canzone perché personalmente perché bella, a me piace molto come canzone. E poi comunque li ritengo un grande gruppo. Beh, uno dei migliori album del quale è stata questa canzone, esatto, che è Melancholy. L'infinita tristezza. E l'infinita tristezza, quella che governa questi studi appena noi ci mettiamo a piede dentro. I ragazzi saltano fuori con Gish, mi pare pressoché giusta come indicazione, al contrario di quelle che sbaglio pressoché costantemente, per i quali tutti siete invitati a correggermi. Un passato di droghe, non indifferente. Chi più, chi meno, sì, ma io ci tengo a sottolineare queste cose. Uno mi pare sia morto di overdose. Il batterista. Se non sbaglio. Eroina. Vedi? Grazie. Condoglianze alla famiglia. Qualcuno mi dà ragione. Tornate più spesso. Mi ricordo che anche altri ci hanno dato parecchio sotto. Sì. Infatti sì, poi Billy Corgan si è parecchio risentito e ha sostituito pure Darcy, sì, la bassista, con Melissa Auftermaur. Melissa Auftermaur, che ha anche un po' di carriera solista, e anche una bella donna, se posso dire. Sì, non serve che usi... Ho detto bella donna, in effetti. No, infatti ho detto potevi anche spingerti un po' di più. Cioè, se volevi grande topa, sì, potrebbe essere, capito, però. Questo è il favotto che conosco. Ma voi avete a che fare con le sonorità di Smashing o assolutamente no? Ma non assolutamente no, però neanche... Neanche assolutamente sì. Non ti senti di escluderlo? Allora, la facciamo presentare a loro così. Oh, certo che sì. Allora, a questo punto Enrico presenterà la prossima canzone. The next song is called 1979 Smashing Pumpkins. Lie white right above the street. 1979 degli Smashing Pumpkins dall'album Melancholy and Infinity Sadness. Questa è Music for Youth. Bentornati in studio con Monsieur Alvise Favotò. Au revoir. Au revoir. Te dirai bonsoir e salta que- non è che sto andando via. Mica ci ascoltano tutti la sera, caro dal signore. Sì. Adesso però non partiamo con il pistolotto religioso sulla persona che ci ascoltano al mattino, per cortesia. Va bene, non c'è problema, è già tempo di cedere la parola a te. È già tempo di fare domande all'ospite, agli ospiti. Li vedo proprio ghiotti. Sì, sì, no, ma li molto, vedi molto ghiotti. Sono qui con anche dei tovaglioli attorno al collo, hai capito? Con scritto domandami. Soprattutto Michele. Accontentiamo sti ragazzi allora. Esatto, facciamo subito una domanda. Eccoci qua. Ci dicevate che i... Novalisi? Novalisi. Vedi che era solo secondo me l'hai fatto apposta, esatto, per vedere. Allora, vi formate dalle ceneri di un precedente gruppo. Esattamente. Il vostro sound cambia nel passaggio o rimanete lì o che cosa facevate prima? Cosa fate adesso? Siamo curiosi. Allora, il sound cambia inevitabilmente. Prima era più un grunge, un po' più sporco, un po' più grezzo. Con il cambiamento c'è stato anche un rinnovamento del genere verso sound più affini, un po' sullo stile un po' più del rock alternativo in italiano, con influenze anche internazionali. Spero di essere stato chiaro. Sì, cioè, nel senso, peggio di me non potevi fare, per cui okay. No, ma se dovessi dare un qualche riferimento, una qualche band che puoi dire che vi ispiri un po' tutti o che piaccia almeno un po' a tutti. Guarda, questa è una domanda che ci fanno tutti prima di sentirci suonare e noi come e noi ci odiate, vero? No. No, e noi come ogni volta diciamo che diamo un minimo o massimo comune denominatore, che sono i Verdena. I Verdena. Quelli che... di Elefante, quelli di Luna. Logorrea. Sto bene se non torni mai. È vero, bravissimo. Ah, vedi. Ho finalmente una citazione. Anch'io ho qualche cosa in questo cervello. Noi abbiamo gli effetti speciali. Oh, per la prima volta dopo un anno e mezzo di programmazione, no. Un anno, dai. Poi tanta gente ci ha chiesto questa cosa, adesso ne stiamo parlando come sia il classico panettone a Natale, in realtà no, molto più carino. Tanta gente ci ha chiesto questa cosa, queste persone sono le uniche che ci hanno... Sì, che siamo riusciti ad accontentare finora. I ragazzi ora ci suoneranno qualcosa, una gran novità per Music for Youth. Eh sì. Che traccia ci presentate, giusto per sapere? Vi presentiamo La Bottega di Flavia, che è il nostro, diciamo, cavallo di battaglia. Lit single. Singolo. Si quello, può dire il singolo. Quello che potrebbe farvi solcare le classifiche. Chissà. Quello che viene suonato nelle balere. Tipo. Di cui la gente non è mai paga. Esatto. Esatto. 97.8 Radio Sherwood. RSD 102.2. La sperimentazione in quel di Music for Youth. Andiamo a sentire che cosa? La Bottega di Flavia. Sogni, donna di desideri, donna dal sorriso perso in mille pensieri. Questa è la storia di un bottone di vita, di calze strappate, di donna ferita. Nel volto distrutto ci sono molte cerniere, segno del tempo, segno del bicchiere, colmo di solitudine, falsi momenti, angosce pesanti, ma i sorrisi trasparenti. I sorrisi trasparenti. Pochi amici veri, anzi qualcuno mai immorale, non t'han certo aiutata a capire il tuo dolore. Califlavia, non puoi trovare il passato nella bottega di Flavia, c'è solo merce a buon mercato. Pensavi di essere stanca o forse non te ne fregava niente. Ora che sei incatenata dentro a un pigiama troppo stretto, raccogli il meglio della tua vita e mettilo al tuo corpetto, mettilo al tuo corpetto. Quel verme troppo grande che ha colpito il tuo essere donna, ora di certo non fa sconti e non rinchiude una menzogna. Nella bottega di Flavia non puoi trovare il passato. Nella bottega di Flavia non puoi trovare il passato. Nella bottega di Flavia solo calze e gonne, qualche bottone colorato. Questa era Nella bottega di Flavia dei Novalisi. Sarebbe La bottega di Flavia. Dio. Ok, dai. Vabbè, pazienza. Vabbè, comunque la era bottega di Flavia c'è e della gente anche ci entrerà, voglio sperare. Sì. Esiste, tra l'altro? Sì, esiste. Anche sì. Perché mi par di capire che ci trovi dei bottoni. Sì, sì, li puoi trovare. Allora. La genesi di questa traccia, se non siamo troppo investigatori. Ma diciamo che è una canzone dedicata ad una donna che, diciamo, è stata quella che ci ha avvicinato alla musica. Ah, se vogliamo. Anche ad altro? No. Erano delle domande, solo, dai, Fagotto. Solo di musica. Cioè, io non capisco, cioè, queste hanno appena finito di dire che non ci sono cose vecchie, ci sono bottoni, ci sono degli stracci, vi ha avvicinato anche ad altro. Allora, poteva darmi una risposta del tipo manamane gade tuoi, e invece no. È stato anche gentile. No, infatti io inizio ad apprezzarli per le... Probabilmente li manda all'Accademia della Crusca e noi non lo sappiamo. Io spero possano aprire, cosa che però potrebbe anche accadere al contrario, un concerto di Karl Barat. Anche perché, per come ha messo lui, potrebbe comodamente accadere il contrario. Sareste contenti? Probabilmente per la gente che ci sarà ad ascoltarlo, sì. Tra l'altro sappiate che anche lui ha un passato di droga. Comunque sappiate che anche lui sarebbe contento di aprire per voi, secondo me. Sì, sì, guarda. Si accontenta di due bagigi, quattro birre. Karl Barat, per spiegare, niente, esistevano i Libertines, Karl Barat, un po' il chitarrista sfiga. L'altro è Pete Doherty, ti fai Kate Moss, eccetera, eccetera. Karl Barat... È quello, insomma, in classico che carica gli amplificatori quando il concerto è finito. Esatto, dai. Sì, quello che fa prendere le birre, eccetera. Pete schiocca le dita e via. Carl ci e Carl pensa fa lui. Apparecchia, come si suol dire. Esatto. Lui arriva lì, papaf. Torniamo a Karl Barat. Torniamo al buon Karl Barat che licenzia questo nuovo singolo. Non so se per Rough Trade, al contrario di CD di Libertines, è la pronuncia corretta? Sì. Perfetto, sono contento. Licenzia questo CD in attesa di tornare in compagnia dell'amato Pete Doherty quando avrà finito di slacciarsi il laccio emostatico. Esattamente, no, perché comunque slacciarsi il laccio emostatico comunque è un qualcosa che richiede tempo, richiede anche passione, perché comunque è attività artigianale. e Carl intanto aspetta come si aspetta Godot. I ragazzi sono cresciuti come Squatter nella capitale londinese, gli auguriamo un futuro d'oro quanto è stato il passato, no, e gli auguriamo quantomeno una casaina, insomma. Nel frattempo andiamo ad ascoltarci casa Jeskal, il nuovo singolo di Carl Barat, Run With The Voice. I think since we met, I've got some regrets. This girl that I told, ran all the way wrong. I'm seeing this girl to help me behave, but she wants me to change my path to the grave. I'm happy with the sound of the train, the smell of the rain. I guess I'm still the same. Run With The Boys di Carl Barat su RSD 102.2 e Music For Youth, che sta anche sulla banda di Radio Sherwood 97.800. Corri coi ragazzi. Che ragazzi, non voglio nemmeno sapere. Noi corriamo con i nostri. Con i nostri degni rappresentanti di Meduna. Esatto, da Meduna con amore. E con furore. Ormai ci conosciamo strabene, eh. Scelta un cervello in due. Abbiamo parlato del vostro, diciamo, della vostra formazione. Ora andiamo a parlare di appuntamenti futuri, perché i nostri ascoltatori, quei tre che ci sono composti principalmente dalle nostre famiglie e parenti, anche comunque emigrati, si chiedono: ma noi dove potremmo ascoltarli questi qua? Potrete ascoltare il 29 ottobre a Milano al Legend 54. So che è un po' distante, ma magari però va bene, proprio due passi. Sì, ma comunque noi qui organizziamo pulmini, diciamo. Perfetto. Oppure qui vicino il 6 novembre al Revolver Club. 6 novembre Revolver Club a San Donà. E chi ci sarà quella sera? In compagnia anche degli quei bei ragazzi, come dice Carl Barat, dei Mr. Coma. Esatto, e degli Amori in Ascensore. Esatto, i Love in Elevator. Voi quando mi suonate? Per primi, per secondo? Noi apriamo il concerto. Non mi portano proprio rispetto. Io avrei fatto chiudere. No, fa voto. Portateli dei cannoli. Magari serve. Così i ragazzi si placano. Esatto. Allora, buona fortuna per il concerto in compagnia di Love in Elevator e Mr. Coma H. Massimo Battistella, che salutiamo. Sì, che era qui qualche giorno fa. A meno che non sia ancora qui sotto, tipo sotto la scrivania, in stile Levinsky. Esatto, ma in quel caso sarebbe da te, perché io ho dei gradini qui sotto. Ma ti vedo particolarmente felice stasera. Però noti che la mia salita... Ciao Massi. La mia allora, serietà riesco ancora a tenerla. No, ma infatti guarda che... Infatti il gioco è chi non ride. Sei stimabile per questa cosa. Se no, 10 frustate in stile medievale. Ola. E adesso andiamo. No, ultima domanda. Sì. Oltre a Milano, avete già altre date fissate? Scusate, ma no. Voi andate a tirarvela a Milano abbastanza. Non abbiamo altre date fissate al momento. No. Ci penseremo noi. Esatto. Da questa sera, Music for Youth, booking. Sì. Booking nel senso bucateci. Cioè, prendete qualsiasi cosa. Anche una penna va bene. O le siringhe degli Smashing e di Pete Doherty. Tanto sì, siamo tutti in famiglia ormai, a quanto ho capito. Sì, soprattutto per le malattie venere. A questo punto andiamo a presentare il prossimo pezzo. Grande escamotaggio il prossimo pezzo. Sì. Doppio escamotaggio, perché non mi ricordo di chi ho visto che qualcuno di voi è stato in vacanza in Scozia, Norvegia. No, Scozia tu ci stai, sì, a voto, scusa. No. Vedi che mi desti confusione su questa testa. Ma no, ma è che tu sei impegnato da linguine in giù in questo momento. Con i miei pensieri alti, disarticolati e lisergici. Dimmi. No, chi è stato in vacanza in Svezia o Norvegia? Sono stato in Norvegia, non per vacanza, sono stato in Erasmus. Oh, che là, meraviglia, adesso possiamo fare dei discorsi. Noi siamo più amici di prima, sappilo. Ok. No, beh, era un buon escamotaggio per presentare questa cosa, ossia il fatto che ci sono delle puntate di cover, perché la canzone che andiamo ad ascoltare tra poco non è di Peter Bjorn and John, vicini di Norvegia, esatto, poiché svedesi. Eh sì. Bel collegamento anche geografico. Poi gli facciamo raccontare il suo Erasmus, per piacere. Doveroso. Dov'eri? A Oslo? Ero in un paese sulla costa ovest, si chiama Ålesund. È quella che è scritto Ålesund? No, no, quella è Ålesund. La mia è Hausesund. Noi non abbiamo capito. Gesù. Voto, noi non abbiamo capito niente. No, noi non ci siamo stati in Norvegia. A circa 300 km sotto Bergen. Sotto Bergen? Ah, è la parte della Norvegia del sud che non abbiamo visitato. Sotto Bergen c'era una pescheria, probabilmente. Sì, molto probabile. Ed erano ladri anche lì. Perché non andate in Norvegia, vi dirà. Molto ladri. Molto ladri, pure troppo. Comunque si diceva, questi Peter Bjorn and John dalla Svezia con furore. O con amore da Meduna. Quella canzone che andiamo a ascoltare si chiama Young Folks, sì, però rifatta dai Cooks. Ennesimo collegamento, lo ripetiamo. Perché? Perché ci sarà una puntata o più puntate, se andrà bene il format, dove verranno presentate delle sole cover. Da qui, dal duetto Favotto Terzariol. Sì, pensate che meraviglia. Iniziate a sfregarvi le mani e a leccarvi i baffi. A questo punto capiamo la vostra mestizia per l'offerta radiofonica che vi proponiamo. Comunque, a parte il gruppo di questa sera, che insomma ne sa e deve rivalutare un po' quello che è la nostra conduzione, a questo punto i Cookie, che si rifanno Peter Bjorn e John. 97.8 Radio Sherwood, 102.2 Radio Sandonà. Used to think, would you go along with someone like people tend to disappear. No one would surprise me unless you do. I can tell there's something going on. I'll seem to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you. It doesn't matter what we do, where we are going to. We can stick around. To disappear, no one would surprise me unless you do. E questa era Young Folks di Peter Bjorn and John, rifatta dai The Cooks. Bentornati in studio Music for Youth, Radio Sandona 102.2, Radio Sherwood 97.800. Non finiremo mai di dirvi di andarvi a sentire tutti i prodotti di Wichita Records per cui pubblicano Peter Bjorn e John. Insistiamo. Insistiamo. Svuotategli le tasche. Insistimos, come dicono gli Scapè. Gli Scapè saranno ancora vivi? Probabilmente sì, si sono riformati di recente e hanno fatto anche una data a Radio Sherwood, che al festival di Radio Sherwood che giustamente ci ospita. Noi dove eravamo? Probabilmente in Norvegia. È possibile, sì. Possibile, mentre Erasmus Boy qua si dedicava ad attività migliori delle nostre, tipo rubare mirtilli. Beh, guarda che comunque il mirtillo, non so se ti sei reso conto tu, però i norvegesi sono pieni di mirtilli e non li mangiano. Mi sa che io forse ero distratto a guardare altre cose più che i vero, mirtilli. Vero che non eri lì per i mirtilli, mi fa pensare questo. Noi eravamo già contenti perché avevamo fatto un salto al cinema di Lugugnana, quello che sarebbe quello famoso di prima. Esatto. Sì, sì, ti porti i mirtilli in una salvietta sempre. E sei sempre a posto. Parliamo ora di cose più costruttive, come per esempio la polvere, un problema che attanaglia e le persone. L'acaro e la polvere connessa. Voi ci avete fatto addirittura una canzone. Sì, però che non ha a che vedere con gli acari e con tutte le cose che... Immaginavo. Era solo un buon escamotaggio per girarvi la parola. E soprattutto per pubblicizzare il nostro sponsor, che sono i Folletti, lo sanno tutti. Ah, ok. Insomma, polvere non di sapevamo. Cosa parla? Polvere, ascoltando il testo, è abbastanza intimistica, è un po' difficile da capire al primo ascolto. Un po' come tutti i nostri pezzi che... hanno diciamo la prerogativa di essere interpretati diversamente da ogni singola persona, diciamo che non hanno un significato univoco, unidirezionale, ma che ognuno può interpretarlo a suo modo, insomma. Chi si occupa dei testi e della musica nel gruppo? Cioè qualcuno che è tipo, siete specializzati come tipo le formichine operaie, oppure è più un lavoro di... Diciamo che dal punto di vista dei testi ce ne occupiamo io e mio fratello, che se non si era capito, io e Davide siamo fratelli. Io avevo un po' intuito, però io sono quello tardo e non avevo capito niente. No, c'è della somiglianza, secondo me. Però ho lo schermo del PC tra le balle in mezzo. Sì, adesso creiamo giustificazioni. Come alle me, non è suonata la sveglia. Non mi sono dimenticato, me l'ha mangiato il cane. Sapevo io, come al solito, che si andava a finire là. Voi quante tracce avete all'attivo? così giusto per fare buttarci un po' sulla statistica. Con quelle nuove prodotte saranno una quindicina. E quando è che ci date in regalo il vostro album? E il nostro demo sarà pronto verso fine mese, inizio novembre. Quindi speriamo che per la data o di Milano o del Revolver di poter fare il nostro banchetto merchandise. Se vi serve qualcuno, veniamo io e Favotto, ci accontentiamo. Molto volentieri. Di acqua, possibilmente non gasata. Sì, anche uno dei due fa proprio il banchetto, nel senso che si mette a quattro zampe. L'acqua non gasata, perché sennò poi fa voto rutta e sì, non è un sì, bel sì, sentire. Sì, no, è sempre brutto, cioè, a meno che, non so, vogliate platinarvi di biondo, però altrimenti no. È una cosa. Andiamo ad ascoltarci la loro traccia? Ma sì, facciamo. Presentatevela. Il prossimo pezzo si chiama Polvere e sarà contenuto nel nostro demo dal titolo N. Thank you. Polvere dei nostri ospiti da Meduna di Livenza con furore, come si è già detto più e più volte. Favotto, bentornati in studio. Questa, se non te ne sei accorto, dopo ben 46 minuti, è Music for Youth. Sì, e pensi... vai in onda sui 97.8 di Radio Sherwood e sui 102.2 di Radio Sandonà. Stranamente ci sei, volevo verificare se sei in bolla, perché sai che per te è giunto il momento più difficile della serata, o a suo modo anche il più facile. È il tuo turno, i contatti, vai! Sogni un amore dolce come il miele? Lo sogni, Terzariol? Ma insomma... In questo caso, Music for Youth, il pendolino di Daniele. Chiamaci allo 0421 560993 o mandaci un fax allo 0421 560994 e il qui presente Terzariol agita il suo pendolino molto meglio del polipo Paul e ti predice futuro in termini di amore, lavoro, denaro, animali domestici, piante da giardino. Come si fa a vedere il futuro con piante da giardino? Piante da giardino che possono esserti inviate nel caso in cui tu mandi una mail a radio@radiosandona.it. Cioè sei promosso a pieni voti anche questa settimana. Grazie. Cos'è che avevi presentato la scorsa? La scorsa avevamo un qualche prodottino che poteva essere un fornello da campo. Tu dici? Mi pare di sì. Beh, nel caso te ne sia dimenticato e tu abbia voglia di andare a riascoltarci, su quale blog ti devi collegare? Ma ovviamente www.wordpress.com e da qualche parte c'è Music for Youth, sì. Quindi deve essere www.musicforyouth.wordpress.com. Ma io, radioascoltatore, che sì, non so come scrivere youth, ti prego, dimmi, come faccio? Batti sulla tua tastiera, gentile utente, YOUTH. Altrimenti, se ti vuoi complicare la vita e andare a leggere delle boiate abbastanza paradossali, c'è un blog parallelo che è musicforyouth.tumblr.com. Altrimenti c'è il gruppo di Facebook, al a quale questo punto, pure voi vi iscrivete, sì, mi raccomando, sì, grazie. Questo non era una domanda, eh? Cioè, era un'affermazione. Era una sorta di ordine perentorio, imperativo categorico assoluto. A questo punto, chiediamo a loro come si scrive Tumblr. Avete in mente come si scrive Tumblr? Tumblr. Giustissimo. Giusto? Anche secondo noi è così. Questa è la risposta pressoché corretta. Sì. Sì, sì. No, no, è proprio quella. No, proprio, cioè, hai proprio ragione. Quello. È un mezzo francesismo con del latino innestato dell'ortodosso aramaico. Giusto. Più o meno. Sì. La stessa cosa la fanno i Placebo quando scrivono i loro testi. Sì. Un purpurì di lingue. Non è vero niente. No, i Placebo cantano in inglese, rappresentati dall'ottimo Brian Molko. Sì. Molko, giusto? Sì, sì, sì. Chissà come si scrive Molko. M-O-L-K-O. Oh, questi lo sanno, Cioè, è inutile. Gli ennesimi nuovi presentatori che ci sostituiranno molto degnamente. Perché Placebo? Perché è un'altra traccia portata dai nostri bei ragazzi ospiti questa sera. Andiamo a chiedere perché i Placebo. Ma i Placebo per... diciamo sono una delle band internazionali a cui... vi ispirate. Ma sì, diciamo di sì, ecco. Ci ispiriamo maggiormente come band internazionali, loro sono tra i primi. Specie nella camminata verticale sui grattacieli, perché è questa, secondo me. È questo il significato del video. È di Pure Morning, no? Sì, mi pare. Pure Morning, sì. Dall'album Senza di te non sono nulla, Favotto. Without you, I'm nothing. Absolutely nothing, mate. Questo è un simil campionamento di The Streets, ma comunque non importa, cose che salutiamo rendono The bella una amicizia. Dove è finito? Di Streets. Anche sulle bravo. Streets, probabilmente. Sulle Streets. Con un bidone del fuoco acceso. È anche epoca di castagne, speriamo esatto, che ce ne scaldi marroni per lui. Grazie e arrivederci. Vogliamo aggiungere qualcosa sui Placebo, visto che... Sì, volevo aggiungere una cosa, siccome li abbiamo visti da poco, l'abbiamo scelta perché già ci mancano. Ah, perché sappiate... e io qua vi metto il ferro tra le ruote, proprio di traverso, sì, che non tutti hanno prestato lo stesso concerto. In che senso? La gente si è lamentata che non hanno fatto sto granché. La gente si è lamentata perché probabilmente non hanno fatto i pezzi cavalli di battaglia, però. Insomma. C'era Special Needs, però, quella che avete portato voi. Sì. Dai, di sì, anche se non è vero, tu dillo. C'era, com'è. C'era. Tanto, in caso Brian chiama e ci dice, quella sera non l'ho fatta. Tra l'altro ho un Brian Molko che ha buttato su un po' di chili, a quanto mi è stato detto. Sì, tra l'altro, io so solo che adesso, facendo del sacrosanto gossip, loro hanno recentemente cambiato batterista. Addirittura. Prima avevano un ragazzo con dei capelli lunghi e tipo era orientaleggiante, adesso hanno un tatuato. Saranno stati biondo. Problemi di eroina anche per lui? Ma visto che tutte le tracce presentate non auguriamoglielo, poveretto, ma anche auguriamoglielo agli hobby che gli piace. Esatto, c'è chi piace. Ha il bricolage, metà di questo gruppo fa origami. Andiamo a sentire i Placebo. Special Needs su Music for Youth, RSD e Radio Sherwood in accoppiata. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had. Just 19, a dream it seems. With 6 months off the bad behavior. Remember me when you clench your movie deal. And think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screens. Remember me. Special dreams. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream it seemed. With 6 months off of bad behavior. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had. Just 19, a dream it seemed. With 6 months off of bad behavior. Remember me. Remember me. Già, Without You, I'm Nothing, questa era Special Needs dei Placebo su RSD 102.2 Radio Sherwood 97.800. Stiamo arrivando in chiusura di puntata anche questa settimana, per vostra fortuna, giusto il tempo di cedere la parola ai nostri ospiti per i cosiddetti estremi saluti. Vi ricordiamo che Nova Lisi, i Nova Lisi li trovate su Facebook, sulla pagina di MySpace, su Twitter, presto su YouTube, presto su Reverb Nation, quindi state in campana. Le prossime date vi ricordiamo: 29 ottobre al Legend 54 di Milano, 6 novembre Revolver Club di San Donà con Mr. Coma e Love in Elevator. Per concludere, vorrei spezzare una lancia a favore degli studenti, in quanto due terzi di questa band è composta da studenti, io ancora per poco. Praticamente volevamo dire... Sì, prego, ce la possiamo fare, sai? Ce la possiamo fare. E noi crediamo in te e ti diremo tra poco perché. Noi ti sosteniamo in questa cosa. Bene. Caricati. E sparala. Volevamo dire... No alla riforma Gelmini e sì alla ricerca. Olla, perché fine. Ti sosteniamo in questo? Perché il buon Favotto, nonostante sembri un cialtrone, io l'ho assunto anche per la sua gran professionalità. Sì, nel senso che adesso... Nel senso che hai un alter ego, sì, vero? Sì, sì. Non sei tu in realtà. C'è un mio gemello intelligente che durante il giorno fa il ricercatore. E in quel di Venezia con il parabrisi, e come molti altri è stato costretto ad emigrare per questo turismo della ricerca, e ovviamente in queste scelte turistiche cosa si predilige? Una meta con le palme, certamente la Scozia, le famose palme che spuntano dai comignoli delle fabbriche. Sì, esatto, e delle anguille che ti crescono sotto le ascelle e a cui tu dai da mangiare anche un periodicamente nome. Sì, una Paolo e una Carlo. Ma non stavamo parlando di riforma? Sì, esatto. Non preoccuparti, ci ricordiamo. Ma no, noi ora ci arriviamo. Supporto e quindi... anche da Padova, rappresentata ben poco degnamente dal sottoscritto, che insomma non fa ricercatore, però ogni tanto dà una mano, mettiamola così. Dà una mano e lava l'altra. E lava l'altra. E a questo punto sì, supporto per questa mobilitazione di ricercatori studenti e la speranza che insomma qualcuno si metta una mano sul cuore e lo trovi. E tiri fuori anche un po' di grane per questa ricerca, che mancano le grane. Aiutateci. Sì, perché anche sopra il cuore c'è un taschino e di solito metti le banconote quelle. Quelle grosse? Sì. Casciateli i soldi, mortacci vostra. Ah, oh. Ricercatori tutti, vi dedichiamo una traccia veramente allegra. Innanzitutto noi ringraziamo chi? Ci arrivavo. Ma non importa, ci faccio arrivare io. Ringraziamo? Ringraziamo la band, grazie mille, bei ragazzi. Grazie a voi. È stato bello avervi qui e noi ci sentiamo veramente onorati. Sì, anche perché questa traccia acustica ci ha veramente sorpreso. È un po' inquietante che ci dici bei ragazzi, però ve lo assicuriamo, dai. Okay. Hanno sicuramente più presenza di me e te. Sì, beh, cavolo, cioè, guarda qua, che non ci voglia guarda che bel prodottino. Guarda che tre magnifici individui, hai capito? Noi, come si diceva, dedichiamo ai ricercatori, che saranno di un animo già ricercatori già con un piede nella fossa, noi commemoriamo un morto. Noi commemoriamo un morto, però un morto che insomma che di storia parla. Ne ha fatta. 77. Era il 21 ottobre del 2003 e ci lasciava un grande che era Elliot Smith. Sì. Purtroppo anche lui vittima della droga, scusate se torniamo, della depressione e dell'alcol. Un ottimo finale circolare pascoliano. Infatti, al di là della siepe, il nulla. Esatto. Infatti lui si è assiepato ad Echo Park. Esatto. A Los Angeles. In quello passava la cavallina storna, l'ha aiutato? No. Il ragazzo 34enne, insomma, ci ha lasciato così. Gran dispiacere, perché ha dato vita a 5-6 buoni e ottimi album. Continuano le pubblicazioni postume, giusto perché sui morti ci si fa sempre di soldi. Esatto, e continuano le coverizzazioni di questo grand'uomo. E vi posso segnalare una cover di Florence and the Machine, una cover dei Muse, sempre su lavori di Elliot Smith. Sentitevele, che hanno motivo di esistere. Noi invece ce ne andiamo con l'originale. Sì. Questo è Elliot Smith, questa è Music for Youth, in onda tutte le settimane, il martedì su Sherwood, 17.30 alle 22 su Radio Sandona 102.2, Between the Bars. Per voi, questa è Elliot Smith. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do